Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. No, questa è una lacca di sono una pista di sci, è una pista di sci. Scusi, Jimmy. Madonna, ma in testa cosa si è messo? Un mobile di Aiazzone? No, ma che ho messo in mobile? Sì, come si chiama il tipo del sabato? Sì, era Guido, no, Piero Angeli. Piero, provare per è in mezzo ai capelli. Ce l'hai lì in mezzo tu. Jimmy, guarda che si chiamava Guido Angeli. Non Piero Angeli è quello che fa Quick. Ah, quello di Piero Angeli, vabbè, insomma, uguale. Vale, Guido Angeli. Non siamo qua né per scherzare, sì, perché diciamolo, questo programma fa schifo. Certo, diciamolo, che siamo qua a zizzagnarci tra di noi. Ha ragione. E quindi colleghiamoci con Lili Rossetti, che so che, come al solito, è super inviata in qualche parte d'Italia. Bene, sentiamo. 105 News, edizione. Basta! Oh, Jimmy! Ma Lilli Rossetti. Se anche voi sabato sera prenderete ogni mezzo pur di andare a vedere lo Zoo di 105 dal vivo per tirargli banane, verze, cachi maturi e uova marce, cantate con me! No. E ci risia, e ci risia, e ci risiamo! Si bei barbo, si bei barbo, sono dal vivo! Sì. Quante mazza, quante mazza, quante mazzate! Lilli! Ehi, piccoli esseri inferiori che ogni giorno sottolineano il proprio cattivo gusto nell'ascoltare lo Zoo di 105. Sì. Sono Lilli Rossetti per 105 News edizione. I pezzenti sabato sera sono in Toscana. Sì. Quante mazzate! Infatti sabato sera la discoteca Capannina a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto sarà completamente invasa da milioni di fedeli e sudditi del nostro padrone Jimmy. Certo. Ma allo stesso tempo le persone verranno per poter insultare di persona Mazzoli, Wender e Giba, che faranno da portaborsa al venerabile. Ma che cosa? Per l'occasione il padre dei padri arriverà a bordo della sua barchetta, uno yacht lungo 5 km, dove a bordo ci saranno diversi ospiti d'eccezione e un numero impressionante di meretre. Tra gli ospiti Ricky Martin, Santana, Sting, Boy George, Marco Biondi, Sylvester Stallone, Claudia Schiffer e l'Enuncia del Centralino, e l'Enuncia di nome del Centralino di cognome, Bill Clinton, Lara Croft, Marco Fullone e tantissimi altri. Fullone? Pensate che l'eroina di Tomb Raider sarà accompagnata da un dinosauro vero che verrà ammazzato da Lara Croft in uno show che introdurrà l'arrivo del venerabile Jimmy. Che gran persona! Ma cosa? E in arrivo dal Galles anche una comitiva di biadesivi per il pezzente Donatello. Non è vero. Ed ancora alla sbronza di Mirto dello scorso sabato ha dichiarato in un'intervista ad una radio locale le seguenti parole. Ho sempre avuto una gran passione per gli uomini. Non è vero. Ma dopo la serata in Sardegna ho capito veramente che io sono gay. No! Lo vedi? No. La tua passione è la radio, no. Sì, ma solo perché devi far sapere a tutti quanto sei biadesivo, no, e gay. Non è vero. Gay, Lilli, gay, no. Gay, gay, gay. It's fun to stay in bus. Non sono gay. Senta, guardi che ero ubriaco quando ho rilasciato quelle parole. Ma non è che sabato prossimo la Capannina fa come in Sardegna, si mette al bar e invece che servire i clienti si beve tutto lei? Non è vero, non l'ho fatto. Ieri sono andato a ritirare la mia macchina nuova, no? Beh, a un certo punto mi chiama Jimmy. Beh? Dice vieni qua a prendere mio figlio perché sai che suo figlio deve venire con me a fare i giri. Ma ha distrutto la macchina. No. Dopo facciamo sentire. Abbiamo puro registrato quello. Tutto. Poi un disgraziato. Però c'è una bella notizia. Quante storie che fa lei. Il mondo oggi migliorerà. Cioè tutto cambierà. Costerà meno la benzina. Finalmente i politici non ruberanno più soldi. Non spariranno milioni di miliardi in giro per l'Italia. Ha vinto l'Inter. Beh, questo ancora. Tutta la gente a casa che diceva ha vinto l'Inter. Ma chi se ne frega? Ma basta con sto calcio, avete rotto le balle. Basta. Questo paese andrà in rovina per colpa di sti minchioni che tutte le sante domeniche si mettono a guardare le partite. Basta! Non rompeteci più le balle. Io non ne posso più, veramente. Io penso di essere l'unico italiano che non mangia pesce e non guarda calcio, perché non se ne può più. Lei il pesce lo mangia in un'altra forma, ma lo mangia. No. Basta, il calcio ha rotto. Basta. città. Diciamolo una volta ma per tutti. Pensate ai milioni che spendiamo in più di benzina. Finché vince l'Inter, perde l'Inter, vince la. Ma chi se ne frega? 4 milioni sono occupati. Ma porca miseria. E a questo punto trattiamo un argomento serio. Una volta per tutte ci colleghiamo con Canal Jimmy, dove qui veramente vengono riportati i problemi di un uomo che non fa schifo di più. Fa basta, pena. Basta con il calcio. Ecco. Basta. Mazzoli. Vada. No. Canal Jimmy presenta. Canal Jimmy presenta. Vinta TV. Questo video amatore sta riprendendo dal balcone della sua casa Down Hill in California una rapina ai danni della banca di fronte alla sua abitazione. Questa è una rapina! Tutti bene! Mi sparo nel culo! No! Sulla testa! La polizia, avvisata di quello che stava accadendo, corre sul posto nel tentativo di neutralizzare i malviventi. Dalla macchina corsa per prima sul luogo esce il poliziotto TJ Lee Hooker, ecco, che comincia a rispondere al fuoco dei malviventi che per primi avevano cominciato a sparare. Adesso vi faccio vedere io. Vi sparo a tutti quanti. Faccio un macello, vi annienterò, vi ammazzerò, Shatavin. Il suo collega viene ferito quasi immediatamente. No. TJ Lee Hooker rimane da solo contro i 4 rapinatori. La situazione diventa drammatica. E ma come faccio? Ma guardo un po', questo cretino si è fatto colpire! Ma lievito Danez, ma sei scemo! Il poliziotto ha nelle sue mani, oltre che la propria vita, anche quella di numerosi passanti che a quell'ora affollano la via della cittadina americana. Proprio inglese lui. La situazione rischia di diventare insostenibile per il coraggioso poliziotto che tenta di intimorire i ladri. Se vengo lì, vi do una ritata che vi annienterò, vi distruggerò! Pezzenti! No! Shatobi! Bravo Tasce! Shataffenta! No! Dopo alcuni minuti di sparatoria, TJ Lee Hooker termina le munizioni. I malviventi possono tentare la fuga. Il poliziotto decide di giocare le sue ultime carte. No. Si toglie i pantaloni e le mutande e dirige il fondoschiena verso i malviventi, urlando frasi sconnesse. Strano. Altro che all'etata, adesso vi faccio vedere io. Mi spoglio. Guarda che ho mangiato le broccolette. E lo sentirete voi che storia arriva. Un'altra volta. Basta. No. Ho liberato l'Italia. Grazie al coraggio di un uomo, dopo 2 mesi di ospedale per disintossicarsi dai gas usati contro di loro, i ladri vengono assicurati alla giustizia. Bravo. Rivediamo al rallentatore TJ Lee Hooker mentre mostra il fondoschiena e carica l'arma in proprio. No! Ho liberato l'Italia. Ma che cosa? Hai liberato dei gas nocivi. Mamma mia. Pensi che questo poliziotto ho saputo che è stato insignito di una medaglia. Ma va, che medaglia ma era? Non era una medaglia al valore. I'm honey, honey, honey tonight. Tu la conosci la storia di sto disco? Lo conosco perché l'ho fatto anch'io. Ma che cosa hai fatto? Ma che non era fatto. Uscita in versione strumentale Poi Musti una sera a Miami ha conosciuto Hot and Juicy, che sono i due cantanti, che erano due merete praticamente al bar. Gli ha detto: volete fare i soldi? E loro: certo. Volete cantare nel mio disco? Certo. Allora lui si è alzato in piedi e ha detto: prova a cantare in questo microfono. Ouch. E allora così è andato. Era un microfono portatile. Portatile? No, perché anche non ce l'ha da davvero. Avevo disgiochi, si portava sempre. Perché dovete sempre pensare male? Tu sei mal pensante. Parlando a mezzo alle gambe, scusa. Ma smettila. Mettiamo un disco nuovo. Come promesso, arrivano i gemelli diversi che ricordano vagamente le gemelle perverse del Festival di San Jimmy. Ti ricordi? Si chiama Musica. Bello sto disco. Bellissimo, questo è bello. Se non mi ricordo se è tema quello biondo dei gemelli diversi, so solo che l'altra sera ero all'Old Fashion a Milano, la discoteca di Milano. Credo sia stato tema. Era un po' nervoso, ha tirato due pugni in faccia a uno che non voglio nominare, che però conosco. E che Tyson. Ma è stato bello perché gli ha dato prima un pugno. Tutti, dai, stai calmo. Lui, ok, basta. Okay, sono dai. Calmo, parliamo. Appena si è avvicinato di nuovo il tipo, bam, un altro. Bravo. Hai fatto bene, se lo meritava. Gemelli diversi, New For You su 105 era Musica. Noi facciamo una pausa e tra poco giochiamo a Mugisci Vinci. Sai che cosa, Leone? Dimmi. È la prima volta nella mia vita che vedo un water con un maglione. No, ti ho fatto vedere la testa. Che schifo. C'è un fax che dice: ciao Pezzente, perché sabato quando sei andato al porto con Jimmy non mi hai chiamato? Mi avrei fatto compagnia volentieri. PS, è un culetto fantastico. Viva il Mirto. E poi, pensate che in preda all'ubriacatura, sì? Lui e l'altro Pezzente del mago, sì? Si sono tirati giù i calzoni in via Roma. Non è vero, è vero. Poi c'è un saluto a Jimmy Moratti, questa è una bella frecciata. Oggi ho confermato Lippi, volevo dirgli. Ma basta, salutiamo Triangolo d'Oro, poi Paola da Squinzano Lecce, Nicola di Cagliari e poi aspetta il fan club di Leone di Lernia. Non ci credo. Dov'è questo qua? Aspetta, ciao Marco, allora, mi sono accorto che la parte del programma che preferisco è Finta TV, ma secondo te mi piace l'arte o mi sto proprio rovinando? Ti stai rovinando. E noi adesso ci colleghiamo con Radio Jimmy per un'altra puntata fantastica di Planet Dingo. Andiamo. Dingo. Planet Dingo. Lo scopo della tua missione è quello di entrare in un locale e farti una entro 18 minuti. Dingo is on the air. Planet Dingo. Benvenuti! Questo è il super pianeta. Certo. Planet Dingo su Radio Jimmy Network. Giorgi, vieni più vicino a Giorgi. Giorgi vede in forma questa sera con tutte le sere. Sei centaurato? Ma che centaurato? Io sono Chuck Norris. Ma basta. Se entro in un locale, entro 18 minuti, sì, mi faccio qualcuno. Ma basta! Anche questa sera l'argomento cibernetico: sing, sung, song, blowjob, no, sì, grand dead, cool, sing, no, song, davanti, dreti, sing, da tutte le parti. No! E quindi anche questa sera l'argomento di questa sera è il seguente. Siete una moglie affamata. Volete fare capire a vostro marito, sì, che gli fate le corna, ma perché non lo volete più. Come fate? Chiamatemi! Ma che 02655 1245 è il numero di Pamela. Chi è? Una mia amica pornostar. Dite che vi mando io. Ma che cosa! Sentiamo chi c'è in linea anche questa sera. Una droide cibernetico, 100 euro. Pronto, chi sei? Te lo dico subito. Non mi fare i complimenti. Eh, se no Pamela te la prendo e te la faccio diventare una bambola gonfiabile. Ma che cosa vuoi fare? Dingo? Chi è? Chi sei? Sono Luana. Ah, meno male, stasera non c'è quello scassapale, ora sono proprio contento. Dimmi, Luana. Sono la moglie di Carlo da Giove. No! Senti, io lo cornifico 7 volte al giorno. No! Mi faccio dagli 8 ai 10 uomini di colore alla volta. No! Secondo te, mio marito sospetta qualcosa? No! E eventualmente, come faccio a farglielo capire? Oddio mio. Allora Carluano, tu non ti devi preoccupare prima di tutto perché tuo marito è uno scassapalle e io veramente non lo sopportavo più, sono contento che hai chiamato tu, guarda. So cosa ti dico, non ti devi preoccupare, sai perché? Perché tuo marito... Chi è? Luana? No! Ecco, cazzo, che c'è? E niente, lo so. Chi è? E nessuno. È la radio? Pronto, Dingo? Ma scusa, una volta che mi telefona un altro, per quale cacchio di motivo mi devi fare uno scassapale di questo tipo? Brava, Luana, mia moglie veramente... Tua moglie mi ha chiesto un consiglio. Vuoi è, che ti... è uno stinco di santo, guarda. Una allora, che sta sempre in casa. Mi dice, amore, esci, non ti preoccupare, non mi annoio mai. Secondo te, non è che mia moglie si sente un po' sola e ha bisogno di un amico, ma Dingo? Che cosa? Carlo, voglio rispondere a te al quesito che mi ha fatto tua moglie. Tua moglie si fa 8 uomini di colore al giorno. No. Ah, sì? Ma tu non te ne accorgi. Ah, no? Non no, te ne accorgi mai. Ah, no, infatti. Perché tu sei sempre in giro. Sì. Sei uno scassapale. Sì. Chiami sempre programmi alla radio. Sì. Sai cosa ti dico? Una cosa tu nella tua vita fai. Cosa dico? Mi sento a trombare con tua moglie. No. Che cosa dico? Prendere solo una bella scossa di arma. Ma basta! Mamma mia! Basta! Basta! Diciamo che questa volta la strada è più lunga. È stata leggermente più lunga, ma alla fine il senso è sempre quello. Ma scossa! Cosa c'è? Sempre a parlare! L'ho conosciute questo. Chi? Billy Ray Martin. Sì, sì. Lavoravano al mercato rionale. Ma non è vero! Giochiamo a Muggisci Vinci, basta! Muggisce e vinci. C'è un fax che dice: fatemi un piacere, quando Leone apre bocca chiudete i microfoni perché in casa mia non si può respirare per la puzza. By Benny di Lecce. Chiamiamo Milano e Ferrara. Attenzione, Muggisce e vinci in corso. Basta rispondere con un muggito artistico. Bello. Oh. Milano, eh? Un po' che non facciamo Milano. Milano? Dai! Team, servizio di segreteria telefonica. C'è un messaggio? Niente messaggio. Andiamo a Ferrara, attenzione! Meugisce vince in corso! Dai, Leone! A Milano è tutto nei motel, capito? Ma che cosa? Ciao! C'è l'eco. Sì. Ma vieni! Brava! Ciao Martina! Ciao Marco! Ciao tesoro! Bene, tu, a parte la puzza che crea Leone, tutto a posto qua! Oh, siete simpaticissimi! Grazie amore, cosa vuoi? Ti ascolto tutti i giorni! Ma che gran persona! Cosa vuoi, cappellino o la maglietta? Maglietta! Te la mandiamo, un bacino! Ciao! Ciao Martina! Ciao! Giba è gay. Sì, è vero. Giba è gay. Sì, è vero. Che Giba è gay. Tre volte. Ancora uno. Sì, è vero. Che andate a fare? No! Jimmy, perché lo difende sempre? Perché? Perché io quel ragazzo l'ho visto nascere. Ma che cosa? Pensi che quando è nato, sì, e l'hanno tirato fuori, ha detto, ma scusate, ma questa macchia di chi è? Questa macchia di chi è? Senta sto fax, per Mazzoli, ma è vero che Leone in macchina ha un alberetto marrone al profumo di... Bellissimo. Ciao Gianni da Verona. Cosa facciamo adesso? Pubblicizziamo una cosa a cui teniamo molto, perché il nostro tecnico Giba è un po' in crisi ultimamente. Ascoltate qua. Attenzione. Lo Zoo di 105, il programma che non piace, cerca ragazzo biadesivo per svezzare tecnico del programma Giba, ancora in dubbio sulla sua sessualità. Ricerchiamo biadesivo di età compresa fra i 22 e i 29 anni. Possibilmente alto, muscoloso e molto dotato. Aiutaci a dare un'identità al povero Giba, così finalmente potrà indossare la minigonna di sua sorella, che tanto invidia. Grazie. Ho pensato una cosa. Che cosa? Che qua il cerchio comincia a chiudersi. Cioè? Tra i 22 e i 29 anni lei è anche il target, eh? No. Allora Lilli dice che lei è così. No. Il leone puzza come un topo macio. Leo, leone, tu puzzi come un topo macio. Ma è vero che il comune di Milano ha proposto Leone come sponsor ufficiale della nettezza urbana? Firmato Nicola, è vero. Buono, dai. È buono. Comunque, lì, in quella grossa mucchiata che è lo zoo, siete tutti arci gay. È da novembre che aspetto la mia maglietta. Barboni, bianca, da Teggiano, in provincia di Sa. Senta, sì. Cos'ha comprato come macchina nuova? Carretto del mago G? Lasciamo stare, che suo figlio me l'ha fatta distruggere ieri. Anzi, a questo proposito, visto che noi abbiamo una macchina del tempo... A lei le chiavi. Ecco, andiamo a risentire quello che ha combinato suo figlio ieri. Mentre gli facevo provare la mia macchina nuova. Quante storie. Chiama Claudio, se la fa ricomprare, certo, no? Certo, andiamo. Claudio? Accensione macchina del tempo. Claudio? Sistema operativo. Pronti per il teletrasporto. Era così bella. Gli ho telefonato a Claudio. A mio padre, lasci stare mio padre. Senta suo figlio. Madonna mia, quanto è bella sta macchina. Aspetta che citofono. Cacchio, eh! Jimmy? Salve, sono Mazzoli! Sita, non la vedo però, Lo so! Si mette di profilo! Mi scusi, così va bene? Così. Sono venuto a prendere suo figlio, c'è una macchina nuova, venga a vedere anche lei! Non me ne frego un cacchio! Grazie! Mi mando giù David! Grazie! Fatti bene, se no le tiro 200 torte in faccia con la panna e poi dopo lo metto in forno e la metto a cuocere! Senta, lo sa che è in ottime mani quando esce con me! Mi raccomando! Sì, salve! Salve, Mazzoli! Ciao David. Ciao. Sali piano e non sbattere la portiera, eh. Marco. Ho pestato la cacca di cane. No, David, ti prego. Intanto la macchina è nuova. Appunto. Togli le scarpe, per favore. Sali piano. Va bene. Cosa fai con la sigaretta in mano? Non si fuma. Sei 4 anni. Andando a sigaretta. Ma porca, non si fuma sulla macchina nuova. Non la voglio. Il fumo fa male, cretino. Dai, dove andiamo? Andiamo in centro? Sì, io. La scappotto tutta? Dai. Non toccare lo stereo, lascia stare, David. È nuova, dai. Cos'è questo tasto? No, quello serve per aprire la capote, faccio io. E questo è il triangolo? Quello lì è il triangolo, sono le quattro frecce, David, in caso di emergenza. Quello è il triangolo delle donne. Ma che triangolo delle donne, dai. Come ti sembra? Bello, mangiarsi sul volante. No, non toccarli, no, quello è il cambio. No, no, David, no! Ma sei scemo, mi fai scalare! No, mi fai scalare! No, David! Aspetta, quest'altro! Togli le mani dal volante! David, no! No, David! Ma è più bella così, guarda. Ma tu sei scemo, l'hai distrutta. Ma dai, sempre che ti lamenti. Ha sentito il bastardo? Eh? Suo figlio? Adesso chi mi dà i soldi per ricomprarla? No, io capisco una cosa. Cosa? Lei distrugge 200 carrette a lato. Sì. Ma mai che esce fuori con il naso nuovo. Che cosa c'entra? Fa 200 frontali, ma il naso è sempre lì. È forte. Questo è il programma che non piace. È bello che critica gli altri. E a proposito di dischi belli, un'ascoltatrice molto fedele dello zoo, una ragazza che non piace, ha scritto: io c'ho fame, mangio pane col salame, melanzan, dice: per la prima volta sono contenta di non aver preso la linea del CD Competition. È il disco dell'anno, come si chiama? Ma che cosa? Si chiama Francesca. Dai! La musica nuova passa di qua prima di tutti. Adesso mettiamo il nuovo disco dei Getaway People, si chiama Six Packs, ovvero sei pacchi che fai venire tanto, tu Leone, tanto. Sei palle tanto. La musica nuova prima di tutti è su Radio 105 e ci è venuto a trovare proprio lui in persona, pensate. Dingo. Dingo, sono di Cimina Talk. Giorgi. Giorgi. Non capisci un cacchio, Giorgi. Giorgi, dai, andate fuori, per favore. Giorgi, un cane bastonato non ha la tua faccia. Siete su Radio 105, questo è il nostro New For You, Getaway People con Six Packs, sei pacchi che mi fai venire. E anche oggi giochiamo con i Video Store Blockbuster, vi facciamo sentire lo spezzone di un film e il primo che indovina si porta a casa un sacco di regali dei Video Store Blockbuster. Ascoltate un po'. Sai quello a cui avete sparato ieri notte? Non è morto. Aspetta. Ah no? Ricordi il matto di cui ti ho parlato? Ti riferisci a quello che tu e i tuoi amici avete riempito di piombo ieri notte? Pezzo? Lei pensa che sia vivo? Se l'è sognato. Beh, molto presto lo vedrete e allora ve la farà pagare. Mazzoni? Lei è proprio scemo quando fa queste cose. Il numero verde è 800-105-105. Tra poco giochiamo con quelle gran persone dei Video Store Blockbuster. Lo Zobi 105. Riporti il film. Una tra poco. Negativi. John Cicada con Stop Remix su 105 all'interno dello zoo. Sabato siamo alla capannina, 20 km. Vi aspettiamo a Grosseto sabato con lo zoo. Portiamoci anche Leone, dai, c'è la spiaggia lì. Vabbè, moriranno un po' di pesci, però chi se ne frega, dai. Ma non ci avete l'esca? Vabbè, facciamo una cosa. Non abbiamo l'esca. Usiamo la fine per mandar via la gente. Questo è vero. Ma si libera il locale in un minuto. Madonna mia. Fuori, se vengo io mi spacco. Giba, ragazzi, cosa è successo? Io sabato alla capannina non posso venire. Come mai? Perché? Al puzzone. Mi mancano le forze. Come mai? È perché io ogni tanto... Dai Giba, esprimiti, dai. Mi sento stanco. C'è sì? L'asma. Cosa fa? È morto! Ma non mangio sto ragazzo! Madonna! Tocchino, schiaccia, grazie! E anche oggi giochiamo con i Video Store Blockbuster. Abbiamo fatto sentire lo spezzone di un film. Sentiamo chi... Chi c'è al telefono? Pronto? Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Roberto. Roberto, da dove? Da Cormano. Aspetta che mi sta facendo... C'è un rumorante sulla sedia, basta! Hai indovinato di che film si tratta? Beh, posso dirlo? Certo che puoi dirlo. È Il Corvo? Ma bravo! Bravo, animale che non sei! Bravo! Sai cosa hai vinto? No. No, dai, allora non sei attento, lo diciamo tutti i giorni. Allora hai vinto due cerchietti? Hai vinto due cerchietti? Quindi tiriamo sulle corna e facciamo il cerchio. Dai, non è vero. Tre noleggi gratuiti, una testa alla Blockbuster, il cappellino, la maglietta di Radio 105 e una videocassetta, ok? Ok. Un basone. Posso salutare una? Certo. Ok, saluto mia sorella, i miei colleghi e tutti quelli che mi conoscono. Perfetto. Ciao. Applicato alla vita di Leone di Lernia, che è riuscito a diventare miliardario nonostante sia ignorante, nonostante puzzi, sia brutto, però si è fatto i miliardi. Però facendo niente. Pezzo di porco, tu hai preso una macchina di 110 milioni. Ma non è vero. E io quelli di 15 milioni lire. Sì, certo, perché devi mantenere Ricky One lì, Ricchione, tuo figlio, mamma ragazzi, nipotini. È pazzesco. Io un giorno vorrei mantenere quel clima che c'è quando c'è il microfono spento, no? Noi lo apriamo di nascosto, vi facciamo sentire quello che dice Leone di Lernia fuori della diretta. Oh, io faccio un programma da solo, spacco tutto. Ma cosa vuoi spaccare? A te. Allora facciamo una cosa. Mamma mia. Siccome c'è mio figlio che deve misare. Ah, c'è la David Mary Mix, è vero? Oggi è mercoledì, sì. Leone? Guarda là. No. C'è una telecamera. Radio Jimmy Network presenta la David Mania Mix. Occhio. Cuscugli! Aiuto! Sei ancora sul water? Mi sono incastrato nel water! No! Tirami fuori! Dai, vieni su, vieni su! Aiuto, lo spuzzo! No! No! Dai, facciamo questa Devi Mania Mix! Va bene! Sei pronto? Aspetta che vengo col water! Andiamo! Vai! Quinta posizione, arriva... Dimmi. No! Sei pronto, Woody? Dimmi son qualcosa! Bravo, che sei. Quarta posizione, snap. No. Siamo troppo avanti. Disco dell'estate. Ma siamo in numero uno, lo sapevi? Attenzione, adesso Woody di nuovo farà una dimostrazione per 105. Vai Woody, sei pronto? Vado. David, sì? Sfido chiunque a fare un mixato così seduto sul water. Sì, io lo sapevo. Terza posizione. Arrivano là. Il rapper di Lai. Che bravo è, oh. Get down everybody. Numero 2, Dragon Ball, attenzione, sta per arrivare. Cosa c'entra Dragon Ball? Sì, sì. Attenzione. Vai. Cosa c'entra sto disco? Dragon Ball. Scommetto che Woody avrai messo la numero 1. Eh sì. Numero 0. Vai! I found my love in Portofino. Corretta bene. Perché nei sogni. Tienti. Sta staccandosi il tappo. No. Tienti. Che disco. A Portofino. Massolino. Ha preso il cuore. Attenzione. Mazzoli. Ascolta, ricordati sempre il nostro motto. Sì. Quando penso al tuo nome Mazzoli mi viene lo spruzzo. Ma basta. Devo dire una cosa. Cosa? Che Woody sul water è migliorato a mettere. È vero, è vero. Hai notato? È vero. Ma come il programma, da quando abbiamo un water in studio, Leone di Lernia, la siamo saliti di ascolti. È incredibile, i water portano bene. Tu hai mai visto un ferro da stiro dentro un water? No, non ce l'ho. Leone di Lernia ha un ferro da stiro nei pantaloni. Gamma, va. Tua moglie si dimentica di toglierlo. Guarda, io faccio falegnamocelo. Ma che cosa. Mettiamo Robin S. Questa è Show Me Love nello Zoo di 105. Leone, ti posso spiegare una cosa? Subito, subito. Ecco, allora, il cellulare, se tu schiacci OK, okay, risponde alle chiamate. Ho capito. Tu non puoi mettere in attesa una persona per 7 ore e mezza. No, lui mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che ci sono 7-8 cose da scegliere. Ma cosa devo scegliere? Se bambole gonfiabili sono. Allora facciamo una cosa, visto che poco fa è andato in onda l'appuntamento del traffico di 105, sì. Noi abbiamo un altro nostro speciale dello Zoo di 105 che si chiama Wender Traffic, ascoltate un po'. Wender Traffic, il servizio di viabilità più predicente d'Italia. Benvenuti al consueto appuntamento di Wender Traffic. Buonasera. Buonasera. Mazzoli, allora, cosa ne pensa delle statali in estinzione? Ma che domanda è? Vabbè, inizio. Dai, parliamo del traffico. Passiamo subito al traffico. Sì. In uscita da Milano sulla tangenziale est, lunghe code causate dal famoso DJ Claudio Cecchetto. Ma per che cosa? Che sta promuovendo il suo nuovo singolo Gioca Jouer. Ma sei un disco vecchissimo. Con lui ci sono Amadeus, Giovanotti e Fiorello. Certo. Passiamo alla prossima notizia. Sì, prego. Come si chiama l'autostrada? Dovuta a un frontale tra un autogrill e un guardrail. Ma come? Per ora non ci sono feriti, ma noi di Wender Traffic siamo già lì sul posto. Sì. Infatti sul posto c'è il nostro Carlo Curva. Sentiamolo. Ecco, sì, sono Carlo Curva in collegamento per Wender Traffic. Mi trovo in questo momento sul tratto autostradale che si chiama Snick. Ma è cambiato. A Stubaie, e dove ovviamente è successo questo dramma. Un autogrill si è scontrato contro un guardrail. Ma com'è possibile? Ma sentiamo la viva voce del proprietario dell'autogrill, sì, che si è trovato un guardrail addosso al suo negozio. Certo. Mi scusi, lei come si sente adesso? Immagino un po' scosso per aver trovato questo guardrail addosso al suo negozio. Ha qualcosa da dire al signor guardrail? Guardi, signor Curva, è successa una cosa incredibile. Stavo ascoltando quel deficiente di Mazzoli. Ma cosa c'è? Quel programma che fa cagare. No. A un certo punto mi sento un botto incredibile sul muro. E il guardrail è venuto addosso, quel Ringrazio molto, arrivederci. La linea torna a te in studio, Wender. Grazie, Carlo. E chiudiamo con ricordare che per tutta la settimana a Milano sciopero dei mezzi di superficie. Quindi tram, certo. Blocco pullman della benzina. Sì? Potrà solamente circolare in città, in superficie, la metropolitana con gallerie comprese. Ma come? Ma non è possibile far girare una metropolitana per strada. Grazie per la cortese attenzione. Un saluto dal vostro Wender Traffic. Buonasera. Sì, salve, lei fa Wender di nome, Traffic di cognome. Certo. Complimenti, andiamo avanti. Sì. 105. Non te la posso dare. Cosa? No? Jimmy, cosa? Senti, allora, Jamiroquacchio, io non ti... non ti posso dare la mia Ferrari. Ho capito che fai la collezione. È vero, io non le ho mai chiesto. Quante macchine Cavolo ha lei? Parlo. Quante macchine ha lei, Jimmy? Ho capito, ma... Ah, oh, ma non risponde. Cacchio, che palle, non te la posso dare la Ferrari, Jamiroquacchio! Qua ehi, non quacchio! Quante macchine ha lei, Jimmy? Allora, nella mia residenza di Long Island, sì, a New York. Ne ho 75. Poi? A New York? Sì. Nella casa a Park Avenue? Park Avenue, sì, Park. Ne ho 92? Certo. In Italia? Quante ne ha? Ne ho 108. Per un totale? Di? Faccio un calcolo. Cacchio, quante sono? Quante? Niente. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Per chiudere volevo leggere sto fax che ci ha mandato un'ascoltatrice. Questo fax è per Dingo, quindi Mazzoli, fatti i cacchi tuoi. Volevo dire che Dingo è una persona cibernetica sing sung sang, trova la soluzione per ogni problema. Ciao Celtica, un bacino. Grazie a tutti quelli che ci hanno faxato, grazie a lei Jimmy per essere stato con noi anche oggi e per aver buttato io due ore. Guardi, io volevo dire una cosa. Cosa? È vero che questo programma, diciamo così, fa schifo, sì, però, però? Però vorrei dire tante di quelle cose che... No, no, lasci stare. No, non posso dirlo. Perché non le posso dire? Non le può dire perché non si possono dire, però diciamo soltanto una cosa. L'invidia, l'invidia. È una brutta cosa. È una brutta cosa, veramente. Se siete invidiosi e ve ne rendete conto, ecco, cercate di migliorarvi perché l'invidia fa male. Non riesco più a parlare. Guarda che il feg fa bene a tenerlo, infatti, sano. Noi siamo così sereni come un cielo caraibico. Esatto. E poi veramente ti guardi intorno ed è pieno di invidia e c'è un uragano. Ci risentiamo domani dalle 4 alle 6. Ciao Leone, ciao Mago, ciao. Da Mazzoli è tutto, ciao Ziba. Linea New York, bravo. 105 Disco Samba. Ypsilon. Novità. Ma che novità? È un po' cippa, eh? È un po' via decimo. Attenzione, arriva Passion del Nezzo. Sei pronto, Woody? Novità per quest'estate. Ma sei vecchio. It's gonna be a long, it's gonna be a long, it's gonna be a lonely night. Ma è vecchissimo. Anche questa settimana faremo una dimostrazione per tutti quanti con i jingle. 105, 105, it's on fire. 105, 105, it's on fire. Welcome, it's on 105. Disco è questo, è vecchio. Ma cosa è nuovo? In cantina. Era di tuo padre, eh? Sì, sì. Vai Woody, mixalo. Numero 2. No. Tu sei sempre mio. Oh yes. Anche quando va là. Pazzi. Sei l'unica donna per. Vai David. Bene, al numero 2 Alan Sorrenti. Numero 1 remix per voi Woody, Michael Jackson, New Another Love. Vai Woody. No. Pensa che mi ha chiamato, mi ha detto vieni tu a farmi il remix, bel bambino. No. A me piacciono i bambini. Stai attento, eh. No. Occhio, eh. Assali. No. Assali. No. No. Assali, non te la prendere. No. Ricordati una cosa. Cosa? Quando dico il tuo nome, mi viene... Lo spruzzo. No. David. Che bastardo. Io voglio prendere e spaccargli la faccia a questi bambini. Non puoi perché è il figlio di Jimmy. A Woody almeno sì. Woody è un bastardo. Madonna. Ma l'hai visto che brutto? È magro. Tutto buterato. Madonna. Jimmy?